Al-Masad, le fibre di palma. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Periscano le mani di Abu Lahab, e perisca anche lui. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Le sue ricchezze e i suoi figli non gli gioveranno. Sarà bruciato nel fuoco ardente. Assieme a sua moglie, la portatrice di legna. Che avrà al collo una corda di fibre di palma.